signor Marco. Si è riconosciuto dal fischio. Aspetta, stavo mettendo a posto un po' di roba e visto la giornata di oggi. Aspetta, da mare era. Era veramente da andare al mare, solo che io ancora non c'ho niente pronto. I costumi sono da sciacquare, tutto da preparare io qua. Oia, oia. Poi qua il terrazzino, no, qui a fianco a me c'è il terrazzino dove batte il sole, no? Non batte il sole tutto il giorno, è un forno è. Mamma mia, sì, veramente una bella giornata, chissà che duri a domani e dopodomani. Veniamo a Platamona non per il mare ma a pigliarci il gelato. Ehi, è arrivata la pappatoia. Manco entrato, devo già andare via. Oggi stiamo mangiando un po' prima, dai. Stiamo cercando di forzare gli orari, di mangiare il più presto possibile e poi la cenare alle 8, alle 9. Capito? Ciao a tutti, saluto a dopo, ciao. Ci sentiamo Marco, ok, ciao. Piano, Tommari, assisti, Tommari, vieni qua, vieni. Tommari, ti ascolto io. Perché stai uscendo a tratti? A volte non ti capisco. Allora Gian Marie, tutto bene, sì. E a Gian Marie sono qua. Sì, a voglia, pulita anche. Oh, allora si apposta. All'intenda grigio, 27.0255. A baghetton tu. Ha bisogno della lampada. Certa, 27.255. Certa, la scena è... Devi staccare il moedo e lasciare un moto. Com'è questa la modulazione? Sempre la stessa, sì. Aspetta, è sempre il microfono da tavolo. Oh, forse ti va via la mano un po' garito. Adesso guarda, sono senza la mano... com'è? È giusta, sì. Ma che mi ero mantenendo la vaga. Attimino, se l'attacco il normale a vedere cosa mi dice. Tommari, guarda a vedere com'è normale, sì. Tommari, com'è questa? Questo è il microfono normale. Da vedere, 1, 2, 3, prova, lontano, vicino. Sì, a Gian Marie. Sì, va bene, sì. Quando le radio sono buone, sì. Oh, manna di raggedo. Sta a posto, là. Messa a posto, là. Ma se l'hai mandata anche a Dubai. Aspetta che andiamo. C'entra. Non lo da si fermo e non è drati più, pago riso e poi questo è così. E allora, ma dormito sì, no? Ma deve essere che lui gira troppo in fretta, gira la manopola troppo in fretta. Spero Gian Marie. Aspetta un attimo Gian Marie, un secondo. Adesso ci sono, arrivato su. Bello bene. Ah ci sei. Mamma mia, l'anima me ne va di città, radio, va su un fondo di trenta la lavatrice. Tu vieni appresso, bello bene! E boh, di passare! figlia lo spray di frutta e confondi le idee. Ehi, e beh, Luca, lo sei sentito? Flipper? No, sarà picca. Anche lì ci sono pesci a mangiare. Lì ci sono i pesci, a voglia che ce ne sono pesci di terra. Non riconosci, grazie. Ehi, basta farci una passeggiata e gli viaggi in Berlusconi, da cazzo una gatta, ma di tutti i livelli ratti e maneri. Ehi, rientro subito fuori. E vabbè, a Semminovi, però Gianmarì. Signore? Sì, a Gianmarì. Ok. Ma non l'ho fatto bene, Graziano, un po' troppo occupa la razza. La voce sua è, Gianmarì, la voce sua è, se così. No, strano, perché prima la sentivo sempre bello, perfetto, bello pippante, oggi lo sento strano, Prova, Graziano. Aspetta, si è allontanata adesso. È la radio sua con il microfono normale. Questo l'apparecchio esce bene con il microfono suo. Adesso ho cambiato apparecchio io. A vedere un po' se era diverso, se la difendeva la radio mia, capito? No, non è la radio tua, è la radio sua che è così, è fatta così. Ma qua anche a te ti sento bello, bello, pippante, bella radio. Invece quell'altro non è perfetta la radio, insomma. Ma sai, te lo dico io cosa deve essere, perché io ho, dunque, allora, aspetta che te lo dico. Cioè, la banda PL, deve essere la banda PL, forse per quello. Però mi senti bene tu, no? Chiara anche la voce. No, questo prima, aspetta che metto l'altro. Allora deve essere un po' a coso, ristretto quello. Sarà il coso dei colori, sarà che t'ha dato. Sei arrivato fino al celeste si è arrivato. Sarà la banda del colore, quello, il PL sarà il coso del colore. Allora qui sono 27, 25 e 50 e c'è AM e a destra c'è BP, quello è il collego, una D in alto a destra. Gliela da così, gliela da. No, è la frequenza giusta, però a me sta arrivando chiaro chiaro. 1.709 lì, lui, bello bene. E la tucca, è sempre imbalsamato e irrumubile. Qua sì, perfetto, perfetto, era l'apparecchio mio che devo cambiare con la sigla, devo cambiare, ecco perché non è preciso. Io qui non ho mai toccato da me, a me sono attrevito ad andare in Udese, tre che ti fai, e vedo mezz'ora, come ti vedo mezz'ora fatto Reno, che fa quello che non mi piace. Infatti stavo per intervenire, buonasera a tutti, poi vi lascio al vostro QSO. Mi stavo preoccupando, Gianmarì, perché ti sentivo fuori frequenza, mentre Graziano e Tore stavano arrivando benissimo. Ciao, buonasera a tutti, adesso stai andando benissimo, Gianmarì. Eccola là, rimane fuori frequenza, così è. Ho provato, in FM non c'eri, in USB non c'eri, nell'SB non c'eri, completamente fuori frequenza. No, perché mi è uscita la sigla PL, chissà cosa sarà. Non lo so, Gianmarì, infatti stavo per intervenire per tranquillizzare sia a Tore che a Graziano, perché sta uscendo come si di fuori frequenza. Ho provato a girare col WFO del 440, non riuscivo manco a trovarti, non lo so, quindi rifavo i denti. Che era con l'apparecchietto piccolino che ho preso, grazie a te, non me lo piace, è piccolino, nuovo, capito? Però siccome ho cambiato il colore mi ha dato questo segnale di PL, boh, la banda PL, mi sembra strano che sia una banda PL, boh. Capito? No, quelli lì non ci sono più, strano, che c'ho questi sono. Bologna, bravo. Due omologati e basta, boh. Allora tu secondo me l'hai messo anziché nella modalità Italia, l'hai messo in modalità PL, che è Polonia, mi suggeriscono dalla regia. E quindi molto probabilmente la frequenza non coincide, Gianmarì, perché sembravi fuori frequenza, capito? E mi stavo preoccupando, ho detto ma cosa mi ha risolto la pigliata che c'è a radio? E invece di tu. Controlla bene, guarda, dovrebbe essere entrato Marco, che lui è esperto in materia. Io vi lascio che sto uscendo a portare il cane, dai. Un saluto a tutti, se ci siete entro dopo. Avanti Marco, se vuoi entrare, se no riprendi tu Gianmarì. Ciao Claudio. Ciao Luguoco. Claudio, aspetta un attimino, fermati, buonasera. Caspita, scendi da me, che porti anche il mio. No, non te ne dico, non te ne dico, va. È una settimana che sono disperato col cane, perché l'altro giorno è stato male. Mi ha attaccato un virus intestinale e non ti dico cosa succede con i cani con il virus intestinale, perché penso che lo sai, no? Quindi il veterinario a destra e a sinistra per bloccare le scariche, guarda, un casino. Salivo a casa, dopo mezz'ora dovevo tornare a scendere, salivo a casa e dovevo tornare a scendere. A Ravini mi ha giovato la barracca, in giardino mi sono bugiato in chivi perché non si poteva più, non si poteva più. Adesso grazie a Dio tra ieri e oggi sta un po' bene. E quindi lo voglio portare un po' a camminare come maestro veterinario. Cicciotto, via, no? Capito? Ma da sapere, posso dire un doio che già mi basta Romeo a me. vabbè, da. Ma dimmi una cosa. Cos'è cambiato? Crocchette è cambiato per caso? No, to, sempre le stesse. A me mi riportano da Predanieta, da quello che fa i mangimi, mi riporta sino a casa, già da un bel po' di anni. Non ha mai avuto niente, nulla. Tu immaginati che gli ho fatto il riso in bianco con la carne macinata, non ne ha mangiato, perché non è, cioè non è abituato neanche lui, capì? La Giubbotta un pugno di crocchette se le ha divorate, le sue crocchette. Assolutamente, proprio il veterinario mi ha detto che è pieno a Sassari di cani che le stanno portando con questo virus intestinale che le fa diarrea e vomiti, capito? Però non è niente, non è gastroenterite, non è assolutamente niente, è molta stanchezza. Infatti il mio me ne sono accorto, anche l'ha sempre bucato, le diceva io a nonno a fare la pipì, e lo si ribigiava, e quindi mi sono preoccupato, l'ho portato al veterinario e si è accorto di questa cosa. Ah, io già c'ho l'antibiotico per quello, per lui, per queste cose qua. Lo so, to, però sai, io non è che sono così pratico, il mio è un bulldog inglese che è molto ma molto delicato, molto. Lui basta che annusi da terra qualcosa o che stia a contatto con cani che non sono vaccinati, anche odorando la pipì di altri cani che non hanno avuto i vaccini, le cose che ci hanno i nostri, diciamo, lui subito prende subito qualche virus, lo attaccano subito, capito? Perché i molossi sono così, sono molto deboli. Vabbè, allora Roberto, Gianmarì, ti ripasso il cambio e guarda che ho sentito Marco poco fa, se c'è magari ti spiega qualcosa lui, se come cambiare la cosa, devi cercarti la modalità italiana, perché sicuramente l'hai messo nella modalità polacca, PL, e quindi la frequenza non combacia con la nostra, Gianmarì. Ok, adesso ho messo la banda a dire, adesso dovrebbe andare bene, confermi. Alla grande, come l'altro. Sì. Adesso la banda D, infatti il suo pieno, il suo strano, siccome stavo cercando i colori e sono riuscito a trovare i colori, mi è uscito questo PL, ecco perché mi sentivi così. Adesso è sulla banda D e già siamo qua, va. Ok, grazie Claudio. Ah, figurati, sono in ascolto io, se ci siete ci sentiamo dopo, dai, riprendete. Ok, d'accordo, vediamo un po', Graziano. Ehi, della banda D qua c'è, dice, su un altro a destra, c'è scritto a D. Io ti sento bene adesso, infatti non è troverai la base italiana, per carità. Tore. Sì, a Gian Maria, già è a posto, sì, stai uscendo bene. Ormai già, già ti ho pigliato male comunque. E l'ultimo manzano, però bisogna correre il ciglio. Piano piano, docca a docca, già si fa. Ho capito un po' se c'è Marco. Ah, c'è Marco. Ciao, buonasera a tutti. Sì, in effetti la banda PL, in Polonia hanno i canali strani, cioè hanno lo 0 finale anziché il 5. Per esempio sul 5, no, anziché essere 27.015 risulta 27.010, capito? Hanno lo 0 finale in tutti i canali e c'è a cavallo tra un canale e l'altro, capito? Beh, meno male che è risolto, dai, buonasera a tutti. Ok, io ho risolto tutto, infatti. Perché è tutto scritto in inglese, comunque me l'ha spiegato quello lì, come fare, già ci ho riuscito a farci metà e se lo conosco già come tutto della questione. Comunque buonasera, ben sentito, Tore. Hello. Sì, io sono qua, ciao Marco. Finito hai di mangiare, sì? Sì, oggi abbiamo mangiato alle 5:30, ma certo non è assai dalle 5:30 alle 6:30, ma stiamo cercando un po' di riportare gli orari quanto più vicini possibile alla vita normale, dai. Anche se poi mangiamo sempre tardi, alle 11:30, quindi non stiamo risolvendo, dai. Comunque l'importante è mangiare, poi io già sono abituato. Caspita, invece questi giorni, mi fa piacere sentire Graziano che non lo sentivo da un bel po'. Dicevo, in questi giorni mi ha tormentato la cervicale, caspita. Ero rimasto troppo a letto col collo un po', con la testa verso avanti. Come mi vado ad alzare, seduto sul letto, mi viene questo capogiro, mamma mia. E ho dovuto pigliare la microserra, no? Contro i capogiri, dai. È curativo, quindi bisogna prenderlo una settimana minimo, capito? Ciao Marco, ben sentito, salutoni. Se sei molto a letto, poi quando ti alzi lo fa a capogiro. Eia, poi io ho il vizio di stare con la testa molto, col collo, come dire, in avanti. Purtroppo il collo mio è quello che è un po' curvo anche, quindi me l'ha detto anche la dottoressa, dice purtroppo il collo le darà problemi, quindi cervicale, capogiri eccetera, ma una croce bisogna averla nella vita, no? Di malanno. Dai, riprendete voi. Eia, non fa a metterti il collarino, magari un paio di ore al giorno. Magari risulta un problema al collo, boh. Così vabbè, dai, tanto rimarranno per avermo tutti, ma io sono fatto la visita cardiologica ieri e mi ha detto, già stai andando bene, da, continua così, prendi quelle pastiglie che stai prendendo. E la disculpa ci sono andati per tu continua a pigliare pastiglie. Certo che sì, ma l'anno c'è sempre. Andiamo bene, va bene. Vabbè. Poi la mia colonna, non è solo il collo, è tutta la colonna un po' messa male, quindi. Vabbè, bisogna imparare a conviverci. Vai, riprendi Tore. Io ti faccio compagnia per quello. Io ho la stessa cosa. A me che non mi veniva dove ero gudu. Mi devo dire fare delle contorsioni per farmelo bassare. Ah, ma quello è dolore, no, a me il capogiro viene, o comunque sta per venire il capogiro, capito? E non è tutti i giorni però, ci sono volte che viene e volte che non viene. E si prende questo micro serve. Non so bene che principio abbia, ma serve a far passare appunto i capogiri, soprattutto disse di origine dalla cervicale. Sì, io ti faccio da destra a sinistra, da destra a sinistra, per farmelo passare. Ma c'è qualche mattina che hanno me ne beso con un capogiro, io buro. Pensa un po'. Allora ti comincia a tirare a destra e a sinistra. Vedi che il dolore poi mi passa e non ce n'ho. Ma chi c'è l'imbriaghera di là di prima, Tore, lasciamo perdere, va bene. Raggi, ultima una meglio dell'altra, non è già il no. Pensa un po', questo che diventa da semio. Cosa devo dire? Faccio 5 anni nel disco. Usato burro, mi devo ridurre la chila, ma 4 basse che ha fatto il camale. Figuratevi il posto di più di basse. Allora, io mi voto Manzanini, da Risetti Mancovinci finta a Risetti. A voi mi voto da mezzo di un'altra passeggiata, poi da Rizzinco e poi a Ridezzi. 2,5 km era di me voto. Oh, è che fatto, dai, io che ha riduttore, la Cavallini, che a tu è, scusa il tuo maestro. Oh, che andate sul rato, pare che abbia fatto 40 km. Andare da Aizete, siamo da segna Gian Maria a posteggiato. Gian Maria, riprenditi. Io che do farvi dire che c'è mal di gudu, gatta e capogiri, che se no mi vengono subito da me, non se lo fai io, oia, e fa capogiri, gatta. Dolore a macchia dritta, che non ha dolore, per carità. Oh, chi ci mandava ci fatto? Una mezz'oretta, in bicicletta, in giro, si occupava di piazzare a Piazza Bottego, quasi alla busta, si sono cazzato, mezz'ora per un camminese, però mi facevano male le chiappe e stava che è tutto, mi succede, e pari molti invece di farsi male gli chiappi. Ah, ti dice un sedile, ma femmini. Ah, anzi, dovete sentire il caso. Oh, va bene che la femmina piace la roba duccia. Marco! Sì, devi fare un guarda, va, c'è un mani. Ah? Avete parlato in due. Cosa hai visto, grazie? Che ho detto, perché non vai dietro a casa tua? C'è tutta la pista ciclabile. Mezz'oretta oggi, un'ora domani, pensa che non si va Lugazzo, no, si va di mare, è logico. Una volta che si abitui non si fa più male. E io sto facendo così, cazzo, va bene, non abito magari a Giuliano, non ce l'hai, stavo che magari una chiesa in una dopo. Sono così perché sono sempre da farazzi, che stamattina non avevo niente a che fare, allora ero in giro, magari può darsi, no, domani mattina no, ma piano piano, col tempo, davvero, ma è pure morbido questo sedile, ragazzi, proprio avanti, strano che mi facciano così male, cosa mi fa, forse la vecchiaia a tua. Infatti, forse la vecchiaia. Aspetta che sto provando quest'altro microfono a vedere. Chi si muove da qua? Prova pure, gatta. Marco! Ditemi tutto, che fra poco mi abbiocco, mi stendo sul divano, si sta troppo bene adesso. Mi metto il cuscinetto, vi ascolto col volume basso e mi abbiocco. Dimmi, bene si fa questa radio, sì? Sì, io ti sento bene. Adesso che hai azzeccato la banda giusta, perché quello è multistandard, cioè può essere usato in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Italia, in Polonia, anche nel Regno Unito, in Gran Bretagna, che hanno i canali diversi là, come i polacchi, hanno i canali diversi, qui sono ancora più diversi i canali, e quindi lo regoli in base al paese europeo dove ti trovi, capito? Per esempio, molti paesi usano solo l'FM, lo sai, a norme certe, non so quali, forse Francia. Se avete notato, quando c'è propagazione, i francesi, gli inglesi, i tedeschi, sono tutti in FM, non ne usano M. E poi in FM si disturba meno, mi si fa meno di guai anche. La Germania ha usato sempre l'FM, capito? Infatti loro parlano in FM, parlano 27 raramente entrano, capito? Però sono sempre in FM. Ma mi sono accorto, sa perché? Provando evidentemente come provavo, magari cambiava la banda, però bisogna fare un'altra manovra per poter mettere la banda giusta, capito? E infatti grazie allo sentivo un po' cupa, non era chiara. Ho provato a accendere l'altro omologato che c'ho e lo sentivo perfettamente. Allora ho pensato, sì, senz'altro, perché questo piede non mi risultava della banda così, capito? Ecco, invece adesso ho cercato la banda D e ho visto che la banda D siamo noi e vi sento tutti bene. Anzi, ti dirò di più, certi paesi come la Germania hanno 4 watt in FM, no? Proprio cambia anche la potenza, in FM 4 watt, in AM solo 1 watt, ecco perché usano più l'FM, lo sai? Ho provato anche quello piccolo che ho, multistandard, no? Con display blu, è la stessa cosa. Prego, la potenza è in base alla regolamentazione del paese che imposti, capito? Ma in Italia è sempre 4 watt AM e 4 FM. Confermo, infatti è così, sì. Ma è così, mi sono accorto che anche sul computer, quando la Germania ti dà 1 watt e mezzo e 4 watt, già è così, infatti è proprio così. Ma infatti il trucco che usavo io, no? Se io volevo abbassare la potenza in AM da 4 watt, che era fissa a 1 watt, mettevo il paese Germania e mi mettevo 1 watt in AM, no? O giù di lì, capito? Un trucco per abbassare la potenza, capito? Perché mi pare che anche le tue fissa, no? C'è un saccaccio di funzioni, ma che non so capire, va perfetto, e per cui può morire pure così. Marco, che a me ci ha toccato il zocca, non mi piace. No, mi dava fastidio, no? Cazzo, ma non ci devo riuscire a mettere i colori. C'ha 7 colori. Però male, mi sono messo di punta stamattina, appena mi sono alzato, e già l'ho azzeccato, però mi è rimasta questa banda PL. Ecco, fino a poco fa, è strano che lo sento così aggraziato, infatti non ero la banda giusta, hanno la banda nostra, adesso invece è perfetto, tutto va bene. Riprendi, grazie. Segui quello che stai usando, c'è quello che c'ho io, così è già male. No, me ne sono preso un altro piccolino, alza la mano, questo è quanto la mano. Così che è nuovo di zecca digitale, vanno molto bene. Ah no, oggi si vede che alla chiara è bella pulita la radio. No, io non me ne voglio più, mi tengo visto e boh. No, lo Zodiac c'ho questo e quell'altro piccolino e boh. Va bene, Tore ce l'hai già aspettato. Marco. Ehi, comunque è un bel acquisto questo, È un bel acquisto perché costa poco, esce abbastanza bene di radio, capito? Invece quello omologatino che ho prestato esce come un po' barattoloso, no? Un po' cupo, un po' gracchiante. Tipo un barattolo, dai. Invece quello esce ancora meglio, esce molto meglio. Vabbè, certo non vado a comprare, basta con i baracchini. Però se uno volesse un baracchino moderno, omologato, quello è una buona scelta. è bellino, ma per il prezzo che costa, ragazzi, ma ce ne sono, ho visto che sono da 90 a 120 ce ne sono di questi qua, mentre invece cosa vuoi pretendere? 63 euro, cazzo, va bene, vanno bene, per cui siamo tranquilli. C'è la targhetta direttamente dell'omologazione e sono tranquillo là. Via, c'è stato un break, avanti. Ciao, già. Ben entrato. Come lo senti, Gio Maria? Abbastanza bene, che sta usando quell'omologato nuovo. Ok, buonasera già. Ben entrata. Ci dovrebbe essere Store. Store? Sono qua, guarda a vedere. Buona, sì. È la radio, Gio Maria, dimmi di sì. Buonasera Gianni. Ciao, Store, bianco. pigliare le mani, a parte ne ha pigliato le mani, ma la dame pigliava un pacco di chi ti manda le mani, e ci ha pregato di lui, a chi ogni quattro ore ve lo deve chiamare. E beh, già un grido, chi fa sovestini, a parte così, la mazzetta, la giudizio, sta avanti, ti tira la mazzetta al cervelletto. Cade di non si è giù. Andato a piano piano, per cui è il macello, certo, sembra così, ma è una rottura, però una volta ce l'ha bisogna tenerselo conto finché non se ne va, è un macello, Beh, tu ce l'avevi ancora, già ce l'hai ancora, no? Come stai dicendo? Sì. Sì, tu sei giovane, è quello di graziare, sono vecchio veramente. Tu grazie ai sacchetti, buro gatto, vero grazie. E allora, no, quando vuoi inizio non entrare più cari, no. No, saranno. No, no, troppo travaglio. No, non farlo, devi farà, prima che mi andava, non farsi più. Niente, io ho bisogno in campagna, ricavi, a trattare bene. Le carrozzelle, grazie, piglia quella carrozzella e ci mette i sederi sopra e cammina, capito? No, capita pure a va, ma vai che chi sta non qui cammina, è da voi rovi, ma questa come si basta la sera, si ci chiede di Dio, allora un secondo quasi, da dal fondo la camera alla letta ne viene a raccio di valle, un secondo per voi, a chi li ci chiede di Dio, no. Dimmi, com'è la modulazione di questa adesso? Dalla radio com'è, buona? Il microfono normale cosa vuoi pretendere? Il microfono normale, confermi. Questo è l'auricolare, che ci ho attaccato all'orecchio, che fa auricolare fa. Ah, ho capito. Vabbè, appena appena occupa rimane là, ma appena appena, vero già. Microfono suo, piccolino, piccolino. Cazzo. Cazzo, è bello preso. Ah, media walk, ce l'ha media walk. E altri pure ce l'ha. Cazzo, ma è bellino, va, piccolino, ma è bellino, vai. Media globe. Ah, ho capito. Media globe. Oh, a media walk, No, ma voglio cosa fa. Cazzo, Marco, come si chiama quello che ce l'ha in Italia? Media Globe è il sito, Media Globe, c'è sia su eBay e costa di più, sempre Media Globe, eBay costa 63, Media Globe negozio 59, più sempre la spedizione. Ed è Gianni, un Presidente Berry, Presidente, c'è scritto Parry, Presidente Berry, c'ha il display digitale, cambia colore, pochi tastini, poche manopole, capito? Essenziale, tanto per avere un omologato a norme europee, eccetera. È buono, ma si sembra neanche di radio, perché ora si è parlato di fare. Ma ne hai attacca che mai la radio? Non le tocco io, già lo sai che io tocco mai niente radio, è la cappa, non so nemmeno la cappa a te, buttare fuori le vite il problema, no, le tocco, no, è originale, dai, è originale. E allora che mi ce la tua voce, dai. Il microfono del presidente presidente Incono versione 2, versione 3, il microfono preciso identico, è della stessa a casa, perché è preciso identico. Hanno fatto una cosa commerciale e funzionale, dove poi la presidente fa questa parità. Va bene, questo va bene, lo posso anche mettere in macchina, piccolino, è tranquillo, va. Bello, bello, bello, a me è piaciuto, però l'ho visto, poi se guarda, apri il computer e fa la mia della globe e lo vedi subito, è bello, per il prezzo del costo va bene. Anche quelli sono apparecchi, quelli sono più grandi di questi qua, però vanno bene, va bene così, già, un omologato 4 watt, in AM, in FM, boh, va benissimo. Che ne tocca più, oh, no no, basta questo, anche troppo, poi oh, no, certo se questo fosse stato avesse avuto le bande sarebbe stato ideale, ma mi sembra che c'è l'omologato con le bande, Marco, mi sembra che ce n'è uno, non so che marca è quello lì. E più di uno ce n'è, c'era il Jopix Ithaca, c'era l'Albrecht 5890, c'è questo qui, il 3009 omologato 40 canali con le bande laterali, poi fammi ricordare, poi c'era questo 8001 XT con le bande laterali, però tutti ne hanno parlato male, non lo so perché. L'ultima versione, tutti hanno parlato male, non lo so perché, dice una grande delusione, mille problemi, boh, parole di chi l'ha comprato, e poi non me ne ricordo altri, già, né altri te ne ricordi, omologati con bande laterali. Sì, c'era anche quello della I, l'ho comprato la Squalo. Tore, ma tu cos'è un baracchino Intec per caso? L'899? Roger. No, perché quando hai parlato di auricolare, infatti l'899 è uno dei pochi baracchini, proprio baracchini, che può usare, a parte il microfono, la cuffia auricolare, cuffia microfono, come la vuoi chiamare. Ha le prese frontali, è interessante, esce anche discretamente, volendo. Giarugino, guardate c'è come sto uscendo. La voce. Questo è preamplificato. Questo è da tavolo, ho attaccato il microfono preamplificato da tavolo. Ah, vabbè, adesso sei un po' come distante dal mic forse, dai. Va bene. Comunque vedi, quando escono questi oggettini. Vi fate venire la voglia di comprarlo, questo è un omologato della Presidente, perché io quell'altro, il Polmar ZX40, esce a barattoloso, capito? Costava o pari o come quello, forse un po' di più, ma esce un po' barattolato, capito? Non è perfetta, invece quello è veramente bella, la radio, per essere un omologato, proprio super omologato, quindi con la modulazione chiusa, capito? Va bene, dai, riprendete, vai Gianni. Oh, io in questi due giorni non c'ero, ma Natalino sta entrando. No, io ieri. C'ero ieri, no, ma avrò fatto un passaggino, mi proprio ci sono, sto rimanendo poco al baracchino, dai, tra una cosa e l'altra alla fine. Adesso mi vorrei abbioccare, però vi ascolto, mi metto il volume basso basso, guarda, mi stendo qua sul divano, metto il cuscino, mi voglio abbioccare e vi ascolto, dai. Gli cantiamo. Oh, oh, pupo bello della mamma fa la nana, oh, oh. No, vabbè, così mi vengono gli incubi. Ma la musichetta, metti le Graziano, adesso ci addormenta subito. Avete parlato in due, è passato Graziano, è passato Gio Maria. Graziano, cosa hai detto? È una nina nana, horror. Horror. Eia, digli stai a dirci che c'è la violentata che ha denunciato da questo americano, dagli Argento, di là è Piccheni. Dario Argento, avrebbe violentato qualcuna con quella faccia, e chi se lo piglia? Ehi, Dario Argento, quella che fa, cioè, va i film horror, di horror, quella lì, ha detto che quell'americano che hanno denunciato un sacco di gente, che anche a lei se l'aveva violentata 20 anni fa, magari era consenziente. Stato dito oggi si ha pagato la cauzione del cura, convinti che si fa della carriera, però è di nano ne biglia. Ma Asia Argento, la figlia di Dario Argento. Asia, è la figlia, qual senso? Vabbè, già è migliore del padre, però, certo, non è bellissima, però io quello che non capisco è, se ti ha violentato 20 anni fa, perché vai a denunciarlo 20 anni dopo? E alla fine non so se decorre pure il reato, boh, non lo so che leggi abbiano in America, boh. I soldi. Ma erano maggiorenni, erano più offensenti, dunque gli do la cuccia, non so quanti miliardi allo giudice per la cauzione dei furi. Perché pensi che quello faccia galera? Già mi ne vedi che da voi visto di non sei già ed invece. O se perdono la causa, ma adesso non so, stasera se lo dice al telegiornale cosa è successo, perché oggi ci aveva il processo, si è costituito, però ha pagato la cosa dei furi. La cauzione, ma quello che dico io, anche se è per soldi, no, che lo fanno, perché non l'ha fatto 20 anni fa, non lo so perché questo addirittura stare zitti 20 anni, vabbè, l'ho visto quello lì, ha una faccia ambigua, amico, il tipo, una faccia poco raccomandabile, ed è un, come si chiama, un coso che lavora nel cinema, che ti fa lavorare, come si chiama, un imprenditore che prende con la gente a fare i film, capito, dico da miliardi e miliardi di nati, e la faccia di porco già ce l'ha, però la colpa secondo me è di loro perché ci sono state per poter lavorare, e hanno preferito un travaglio, come ha detto un'altra attrice, ha detto se la cosa era così, basta fare ci sarà il lavoro, perdevi il lavoro e te ne fossi andata, avresti fatto un altro lavoro. No, non l'ha obbligato nessuno a cucarsi il guetto, o no? Beh, certo che se erano consenzienti no, non c'è la violenza sessuale. No, ma in America non so com'è la legge, e adesso bisogna vedere com'è, cosa ne sciappura. Però no, non va bene, a chi penso che erano i maggiorenni, noi erano i minorenni che avevano occupato il mio. Mi sembra una decina di ragazze l'hanno denunziato, ma altri, adesso non mi ricordo i nomi, altri c'è pure famosi mi. Ti dà una voce calda quella. Io sono sensuale. Io prendi Gio Maria. La voce bella piena. Abbiamo lasciato il parcheggiatore. Tore. Senti, Elio, sono qua. Mi sono spostato appena. Certo, è sensuale pure. Metti il microfono normale però, il suo proprio, senza l'auricolare, che lo voglio sentire. Vediamo così. Sta preamplificato da tavolo. Beh, non sembra preamplificato però. E ha cambiato la giornata alla notte. Comunque, ci voleva Graziano in frequenza, dà una nota di colore al canale, non è vero? Quando manca ce ne accorgiamo. E allora, manco io, muore tutto lo staff, muore, per carità. Oh yeah. Le due settimane, la sera non ve manco un cane, prima almeno un po' era frequentato. Non sempre, in questo periodo no. Ero vernigoso, il vice, sta dritto a sinistra, adesso ne ho una al giorno 8, poi un'altra al 18, e pure la bicicletta ne ho 3 o 4 mi sa. Lo sai che è tutto ciò? Ero qua dal Palazzo Rosso. No, io c'ha lo studio al Palazzo Rosa, quello che c'ho io, ciò si chiama, non ce l'ho più quello altro, delle fili, questo si chiama, dottor Bianco si chiama, questo è un altro. Un cipito. Ma lo so che fine ha fatto, adesso che dovevo andare per un anno in, non so, in cosa, è rientrato a settembre, invece a settembre è rientrato questo qua, e dice uno, lo so che fine abbia fatto. Ma Ottieri è andato a Ottieri quello lì. Beh, già tu stai dicendo il Palazzo Azzurro dove c'era l'oculistica prima, adesso è lì. E qual è il Palazzo Azzurro? Dove c'era l'oculistica prima, adesso lì è diventato il centro diabetico e c'è anche il coso per le analisi anche lì. Ma dove? Ma il Palazzo Rosso, l'ospedale, quello che avevano chiuso? Palazzo Azzurro, sto dicendo, dove c'era l'oculistica prima. E dove era l'oculistica? Ah, Secca Bianca, all'inizio lì, che c'era la sala grande, l'oculistica, che fanno anche il pronto soccorso di oculistica, lì. Sì, prima è azzurro il palazzo. A pian terreno lì è lì. Il centro diabetico. A me a tanti brezzi non c'era forse, non mi avevano voluto. Secca Bianca, lo stesso. Ehi, aspetta, e allora me l'hanno dato al Palazzo Rosa, e stavo sempre lì, a pian terreno. Era solo 3 o 4 lì a Palazzo Rosa, capito? Così che noi infatti siamo lì, adesso dalla spalla. E so che quello di Ale San Pietro si è trasferito, l'ho sentito alla televisione. e non mi ricordo dove ha detto che si è cambiato, capito? Non c'è più dove era prima. Ma tanto io non ci sono io, questi che sono tranquillo, dai. Oh, e tu Gianni ce l'hai lì dove l'hanno cambiato? Oh, Tore. Sì, a Gian Marino, già sono qua. Questo è il microfono originale suo, questo da Palmo. E va bene, toccatore, qua e adesso ti sento bene. Che poco fa con il preamplificato male mi sentivi. No, è meglio questo, dai. È meglio questo la radio. Oh, e allora, su chissà. Arrivato ti è? No, lo guardo adesso. Dammi 5 minuti. Il telefono non ti è arrivato. No, non ho sentito che te l'ho zappato. Adesso lo guardo. Sì, ok. Anda a vedere. Graziano. Ehi, domani mi posso la sabbastigliata, va. A salvacata, invece, per anche da vetta. Io l'ho aspettato, l'ho presa, le anguille, le ho prese, ma non me ne ammetto, la giubiliata, due che di fare la giubiliata, no, ma non me ne ammetto di la giubiliata. A Cosio, a Carifuglia l'ho prese. A 12. Ma io ando entrando, ma l'ammazzavo. Ma ne scendo lì al ponte, vado a piedi, quel fresco del ponte. E vado al mercato al mercato che c'è lì. E guardo lì, non ci vado da calcio, ho andato a fare i buchi, non mi piace. Come non mi ci trovo. Tizio di Santa Maria, cos'è? Compagno, cos'è? Non mi ci trovo. Sì, Corte Santa Maria gli dicevi, e quello non ne hanno lì di cose di anguille. Io ci sono andato un paio di volte e non ne hanno. Io le ho prese da Carrefour perché ero lì, ci ho domandato a vedere campi e a 12 via. Ah, me l'ha giubilato un poco. Ma il mercato già le trovo, a Puglia. No, anche c'è Santa Maria non mi piace, sono andato una buccia, un periodo di Natale, non di su, un paio d'anni fa, e non aveva l'agnone, che non aveva avuto l'agnone, e avevo pigliato un capretto, però no, non mi piaceva, puzzi, infatti non ha mangiato di su, se l'ha già fatto. E poi non mi ci trovo come, no, non mi va, non mi trovo bene, non mi piace. E in piazza Tavaria, è da Capurro lo stesso, sono andato pure con mezz'oretta, è da andare, questo è il mio figliolo. Io non mi ci trovo, non mi piace. Il capretto lo doveva mandare un po' garito con un coso, con un vino bianco per farlo uscire buono, perché sennò rimane un po' aspro, rimane come carne. Lo so, mi la fatica che giù sul mattone a regarmi rubi, adesso verrà a fine mese e alla settimana deve portare le uova e il formaggio, quello lì ce li ha lo stesso, l'agnone, i capretti, i maialetti. Ma io voglio la liscio, sta mi fa un prezzo buono. Vabbè, ancora è annaggio, ma quando mi serve piacerà questo pastore che conosco. Ma lo porta fino a casa. Sì, andate, già va bene. È così, ma... Ciao Mario. Ehi, vai dentro, sono già la vostra. Chi c'è rimasto? Ma non mi ha più capito, Graziano, Oh, grazie, capirà altro. Gianni, gli ha cambiato il radio, non so se c'è, sta cambiando di nuovo. È il Marco che si sta addormentando e noi gli stiamo cantando la buonanotte. No, a Gio Maria gli ho detto, sono geloso di quell'apparecchietto nuovo. Sposatelo così, fate la comunella. Non ho pagato poco, te lo ordini, ti rivendi un rudichi di chi fai e ti ordini quello. Assai. Ma tu di quella carabina, Marco, anche il bulco c'hai con il pezzo del riduttore che prolunga la camera di combustione del CO2. bella carabina, ma la mia carabina è a molla, non è a CO2. Ah no, pensavo che era quella CO2, la CO2, che l'ho sentita la 1 l'altra volta e glielo volevo chiedere, mi sembrava la carabina quella che ci avevi tu. Allora ti dico anche il modello, io l'ho presa nel appena le hanno liberalizzate, è una Gamo 400. Gamo è una ditta spagnola che ne fa un bel di modelli. Gamo 400, libera vendita. La Gamo, già la conosco, ma non mi piace, no, io ho quella, l'Orconia, la B2, a molla, nuova nuova, col treppiedi e binocolo. E poi c'ho la QB 78 a CO2. Stai mettendo, tipo Rambo, tutto pieno di armi. E poi c'ho la beretta a tamburelli, due tamburi, a 8 colpi, 8, 16 colpi. Poi c'ho una lunga col silenziatore, quella arrivi anche a 120 metri. E poi ne ho una più piccola che arriva a 100 metri, che è più leggera. Chi dà con un silenziatore vivo un carro armato a mantiglia, spesa un pro. Però è forte, si spappola con quei pallini a testa piazza. Adesso mentre si è cuppiato il capo della corraccia, ha fatto un'esplosione. Cosa cornacchi? Ui, Gianni, dopo tanto tempo, era anni che non lo usavo la carabina, no? Mi ricordavo che faceva un colpettino off, più blando, cazzo ne fusilata dentro casa. Oh! Mamma mia, ero abituato al soft air, no? Di potenza. E di vedere la potenza, mamma mia. Cioè, sempre liberalizzata, Poi ci sono quelle col porto d'armi che ti ammazzano anche l'uomo, No, le puoi trasportare, trasporto, non porto, cioè, le puoi portare, ne so, da casa alla campagna, dove tiri, da casa tua a casa di un amico, cioè il trasporto. Certo, il porto, volevi intendere il trasporto, dai. Sì, il trasporto per legge c'è, la devi tenere naturalmente scarica, possibilmente nel cofano, non nella bizzacca della macchina, capito? Oh, Graziano, ho fatto un nuovo piombino, ho fatto dei piombini nuovi che hanno la punta in acciaio, hanno il corpo sempre in piombo, ma la punta è in acciaio ed è perforante, quelli sono belli, me li voglio prendere. Che io mi vira via l'ermano Brennazzura, li stavo misurando per la beretta, ma è la carabina, li devo misurare qui, ma penso che siamo perfetti. 15 euro costano quelli, la scatoletta. Poi ci sono anche quelli a punta con il capo, il lugur, l'adimo, in gomma, anche quelli sono buoni. E poi ci sono quelli da espansione. Allora quando entra e esce, come ti spappola la cosa, se la disintegra, è un'esplosione qua. Quindi Graziano spara le cornacchie. Sì, se pari a Rugabu guarda un pugno, ma mano mi è esploso, si è parato in terra senza gambo. Che roba splatter. Un tacchino sembrava, perché poi è rimasto giù nel cortile, no? C'è stellato e tutto dalle piume. Pari a un tacchino di chi ti manni, un pollo gigante. Ui. Eia. Beh, vorrei comunque rimetterla in moto sta carabina. Ho il cannocchiale, ma è brutto, non mi ci trovo io il cannocchiale. Sono abituato a sparare così con le mire, con le sue mire di serie. Se lo fai bene già è meglio, non sai chi va a puntare, fai di Blasco, quelli di Borizzino, oh, là sono pezzi. E dice, ma adesso già farà Dio, se come sta arrivato a farà Dio? Guardo giù niente, scendo la mia nipote, niente. Si tirano, ma niente, ricorraccio, si tirano imbucciati. Tutte e due Blasco. Belle sono quelle che hanno sotto il serbatoio del gas, però quelle sono... Allora, diciamo che c'è anche liberalizzata, ma la potenza è poca. Invece quella proprio col porto d'armi ha una potenza... E poi è silenziosa, mi ce n'è una che ha il silenziatore corporato. Il coso, il piccione, quello che è... Perché in America lo usano per i... diciamo i volatili che sono un po' pest control lo chiamano, che sono un po' invasivi, no? Non senti nulla, tic, e ti becca, caspita, a 100 metri ti becca il passero, è una cosa allucinante. Quelle sono belle, però costano tanto, ci vuole porto d'armi, troppo fatica. Quella c'è in Spagna, se costava 900 eccetera, in offerta speciale 400 euro. Delle strozzature, ho capito. No, io però gli animali non sparo, non mi piace, sto diventando buddista quasi. Vai Gio Marie, e tu sei armato? Ah sì, ma quelli sono troppo di fogna, quelli, mamma mia, sì, quello è vero. No, ma dico animali, piccioni, cose, no, quello no. Ma i topi erano una cosa schifosa, mi. Erano fantegane, mi. Ne avevo seccato tre, capito? Sì, vero di coro, tre ne avevo seccato. Ma c'era l'invasione qui fuori, mi. Perché c'era una tettoia aperta e riempivano il giardino di sotto. Sai cosa avevo fatto una notte? Poi rilanciamo, facciamo girare. Nel buio, no? Sono uscito in silenzio con la telecamera infrarossi, no? In modo da non illuminare nulla. E nel buio vedevi tutti questi puntini luminosi che si muovevano, erano gli occhi del topo che riflettevano. Poi per fortuna, quando hanno bonificato questa tettoia, l'hanno buttata giù, hanno fatto proprio il terrazzo catramato, capito? Non ce ne sono più visti, per fortuna. Sì, quello è vero, quello è vero. Ai topi sì, ma il topo mi fa ripreggio, il topo di fogna. Sì, sì, guarda, ce n'è di tutte le marche. Anzi, addirittura ci sono marche che prima non portavano in Italia tanti anni fa. Insomma, un sacco di marche e di modelli. Io per esempio l'ho presa perché ogni tanto la portavo in campagna di energia a sparare, avevo un utile di 50 metri in diagonale, no, non in diagonale, da un muro all'altro, da un'estremità all'altra, 50 metri, e insomma così da... Ma io certe volte usavo anche in casa, mi mettevo una piastra di ferro dietro per non rovinare rovinare, sai, il muro, quella roba lì, mettevo un bersaglio a mia scelta. Una volta avevo messo, lo sai che quando abbiamo comprato l'agnello, no, per Natale, la carne d'agnello, avevo provato a sparare una parte dell'agnello, che non ricordo se era la testa o cosa era, e ha bucato l'osso, quindi figurati. Ciao Bredo, buca, avete buca, e cioè, si passa da parte in parte, no, quella che ho preso io qui in Italia costa 300 euro, io me l'ho presa da fuori, da Madrid, e l'ho pagata la metà. Ma per quella ci vuole il porto d'armi, no? Vabbè, quelle sono anche troppo forti, Nico, quelle ci ammazzi anche la persona. Se gli spari alla testa, alla nuca, oh, per carità, no, quelle liberalizzate sono molto più blande, però ti diverti che sono libera vendita, capito già. Però siamo troppo monopolizzando. Gio Maria, Squalo, ci siete? Gio Maria. Squalo, ci sei, Tore? Sono andata a prendere la 50. Calibro 50. Ehi, sicuramente, se no prendere sotto. Tore, a chi sei? Ce n'è di vari prezzi, tantissimi prezzi e tantissime marche ci sono. Di libera vendita è 7,5, più di quant'altro non sai, ci vuole il porto d'armi, 7,5 yard, più di quant'altro di libera vendita ce n'è, forse l'altro è superiore a quello lì, ci vuole il porto d'armi, libera vendita, c'è la Diana, c'è la Gammo, c'è la Norconia, c'è la Norico, quindi sono marche, bella Beretta, però le marche buone sono la Norinco e la Norconia, sono buone, la Beretta è buona, la Diana è buona, dipende da quella che vuoi tu, poi c'è a Molla, c'è a PCP e c'è a CO2, dipende, sono tutte belle, a me mi piacciono tutti. PCP è un gas, ci sono delle fialette PCP, no, CO2 sono fialette, ci sono da 12 grammi, da 88 e poi ci sono le classiche bombole più grandi che vengono a costare sulle 15 euro. Dipende dal tipo di carabina che vuoi tu, capito? Perlomeno chi fa più funzionare invece, c'ho una bomba, poi io ho guardato i vari sistemi, se vuoi fare che ti funzioni di più ci vuoi sempre fare, ma quella come velocità è meglio quella a molla, perché tutte le volte che tiri c'è sempre quella porta lì, quella a CO2 per esempio, mano che tiri il tiro tende a decadere, capito? Che consumi il CO2 oppure consumi il PCP, se ha PCP, non è costante come la molla è sempre vista, il PCP è un gas, tutte le volte che spari spiazza, no? E diminuisce sempre la potenza, però sono belle lo stesso. Allora, di 12 grammi e tiri 40 colpi buoni, dai 40 in su sono tutti decadenti. Sì, come ha detto Graziano, le liberalizzate hanno una potenza, hanno un limite che non superano, quindi bene o male sono tutte. Allora, io penso che una normale a molla tipo Diana, Gamo, sui 180 euro la fai, 180, 190, guarda la mia l'avevo pagata mi pare intorno ai 180, però 10 anni fa, appena le hanno liberalizzate, l'avevo presa, sì, una decina d'anni, ed è a molla, guarda che ci sono vari sistemi, adesso è che non voglio, solo che loro non rispondono, quindi... Gio Maria, ci sei? Squalo, ci siete ancora? Abbiamo un po'. Allora, c'è la canna che si piega, cioè la mia, la canna che si piega, la pieghi verso il basso, fa lo scatto, metti il funghetto, il piombino e chiudi la canna. Poi ci sono carabine, sempre che hanno la canna fissa, hanno una leva sotto la canna, tu pieghi la leva, la carichi fino allo scatto e metti il piombino però nella canna in un sistema diverso, come dire, lo metti in asse con la canna il piombino, come spiegartelo? Ma si dice che siano più precise perché la canna non ha giochi, non balla, capito? Ma finché la carabina è buona e la tratti bene non balla. Io la carico anche piano piano, quando chiudo la canna non faccio come i toghi, lo scatto, sta, che la chiudono al volo, io la chiudo piano, clac, ti faccio fare lo scatto, capito? Se no le guarnizioni si rovinano. Sì. Sì, quelle a molla, insomma, monocolpo, sì. Io ho avuto una Crossman, una carabina Crossman in polimeri, insomma, ma roba da trade, Jimmy, che usava le bombolette di CO2 da 12 grammi. Tu metti la bomboletta che ti dà la potenza, no, il propellente, e aveva un tamburino dove inserivi 8 colpi, ci stavano 8 funghetti, capito? Quindi sparavi pa pa pa, poi toglievi il tamburo, mettevi l'altro carico, capito? Però l'ho venduta perché era un giocattolo, cioè aveva la stessa pistola, aveva la stessa potenza, la stessa portata di una pistola aria compressa, e l'avevo venduta quella. Era una Crossman 177, però la canna era da 13, un giocattolo era meno. Meglio a molla, molto meglio, colpo singolo ma bendato. Quella non serve, costa 100 euro quella che hai detto tu, e non serve una nuda. A seconda mano venivo pure a 60 euro, ma non servono. Chi ci sono giocattolini cosa? Esatto, ciao Bacchì, mi pare sia Bacchisio. Sì, quella lì era un giocattolo, costava 120-130 euro a Sassari, fuori costa anche meno, ma tanto vale pigliare la pistola, guarda le Gamo sono belle, hanno fatto una Gamo PT85, è rinculante, c'ha il caricatore doppio, cioè tu spari gli 8 colpi, sfili il caricatore, lo giri, rimetti e c'hai altri 8 colpi. Quella molto molto bella. Avanti, chi è entrato? Bacchisio? Salve, buonasera Marco, buonasera Graziano, per ascoltarti in due, ma chi è questa parte? Avanti Marco, ora. Ehi, ciao Bacchì, stavamo parlando di carabine, eccetera. Già, se tu vuoi la provi, però dobbiamo sapere dove provarle. Poi quella storia che uno becca la moneta a 50 metri, ma buffami l'occhio, dai, a meno che non sia una cosa super precisa e super costosa, tipo quelle che ti ho detto io, no? Che becchi il passero quasi a 90 metri, ma c'è già vuol dire una moneta a 50 metri, io a 50 metri quasi non vedevo il foglio A4, un foglio A4, col disegnato il bersaglio, a occhio nudo, figurati. Sì. Ehi, dipende, se ti metti un bel binocolo a voglia che lo vedi, Marco. Sì, però sai cos'è, Grazia? Che queste depotenziate, anche se le metti il cannocchiale, cioè io ho una prova di tiro a 48 metri, quando era nuova, a 48 metri i colpi sul foglio A4, no? Un foglio A4, erano tutti uno sopra, uno sotto, una destra, una sinistra, non era, invece più potenti sono, più sono precise anche. La velocità del pallino viene influenzata meno dal vento in quelle grosse e potente che ci vuole il porto d'armi, però. Capito già? Magari che sei ripetito. Ciao. No, no, no, ero appoggiato su una specie di cavalletto, una specie di parapetto, come lo vuoi chiamare. Non ero a braccio libero. Via, avanti, buona serata. Sì, non so come si chiama, buona serata. Buona serata, buona serata. No, stavo ascoltando la carabina di Marco. La gamma, quella gamma nuova che ho piacere da Pasquale, di Marco. Sono là per 50 metri. Poi dipende che gamo è, appunto. Ah già, una cosa, io l'ho presa col calcio in legno, perché a me piace più il legno che non questi polimeri di color nero, capito? Poi quelle, non lo so, sono scelte. Diciamo i polimeri sono più leggeri, ecco, però mi piace il legno, classico, no? Proprio. Io mi ricordo che tanti anni fa un amico mi aveva invitato all'Ugulento a sparare con le carabine. C'era una che forse era di anni 50, pesava un calascio, ma ogni fucilata, e devi sentire la padella, proprio beccata mia, a decine di metri. Però naturalmente ci vuole porto d'armi per quello, io no, non ci perdo tempo, no, ad andare a poligono. Tempo e soldi. Una, allagamo, quel giocattolo Crossman l'avevo venduto da Pasquali, ho detto mettetelo in vetrina, che se lo compri qualcuno, è nuova, io era troppo blanda, andavano a coso i piombini, come si dice, a campana, no, non... ci vuole roba forte, con le... quelle che hanno il tubo, un serbatoio tubolare sotto la canna e ci hanno anche l'indicatore di pressione, quelle sono belle, però il discorso è sempre quello, le vendono anche liberalizzate, quelle lì, ma liberalizzate rendono poco, costano un bel, quelle semiprofessionali rendono poco. Dal terrazzino, tira i bambini che giocano a palla, i piccioni, le cornacchie. E ancora che oggi ho salvato con tutte le ronde, stasera sono lavata per terra per andare a mangiare, guarda, la spesa un po', sono andato avanti, ho fatto per tenere un po', e lo libera. Bello dai, è il cuore tenero, dai, come ce l'ho io. Però quando vedi le cornacchie sul radiale dell'antenna, che rischiano di sfacciarti, allora lì sì che ti viene davvero voglia di sparargli in testa. Vai, Bacchi. Sì, sì. Sono dura però, sono dura ma l'altro, non c'è qualcuno che si stiamo sentendo, ma sono dura. Ah, è Graziano, sparito, è Graziano. No, stavo telefonando la pizza per stasera. Sono dura, perché tu devi spararla a testa? Senti, si è bella grossa, bella grassottella, se la spari in colpo qui si vorranno a testa. A capo li devi mirare. E ha giudicato che si abbigliare a qualcosa che torna, prima di dire a te. E come faccio di solito, dopo gli assurrei ma. E la abbigliare a capo l'hai spappurato un capo, ma ora che ti la madura ghizza, quando arrivi da te l'ha fatto un burro gioco, bah! Il pompo ha fatto, di cantina la grassa. Se sei appena distante, chissà continua a burare, magari la bene farà più fino in danante, capito, però riesce a soffarsi da lì. E avere la cuccia per non avere le rotolette, anche la figlia, la tira. Sicuramente non mi stessi, stati visti stati in bella pollaiati, la gente rive, stati più. Adesso ti denuncio al WWF. Non si impara a ricamminare la zecca, non ti arrasta, non bilancio. Le linguaggi. Dai, mi assento un attimo, dai, che mando una cosa a Gianni. No, no, ti devo mandare quei pallini perforanti, ti devo far vedere la foto, e boh. Questo con arco, questo è un arco di acciaio. No, è un po' pallino. E fammi sentire di mangiare, perché ti fammi dare i fusili. Ehi, la pizza, basta l'uscita, aggiungi un altro. Boh, buonasera, signor Bacchisio. Buonasera, signor Maria, buonasera, per il mio prato. E ci deve essere anche il signor Tore. Dovrebbe essere il frequentatore. Ah, insomma, sto aspettando un po' per ultimo. Oh, cazzo, ho sentito poco fa, allora è andata a prendere la 50, rientrerà subito, senz'altro, Bacchi. Sì, allora ci vediamo. Capito, capito. E poi grazie a Piano Pino, usando lo stai. Grazie, grazie, grazie. Ah, va, te devo chiedere la pizza, mi raccomando, va, vi puoi tutta completa, solo deve essere andato a prendere la 50, anziché rientrare subito a Bacchia, e allora, cosa ci racconti? Oggi una bella giornata, ho fatto una passeggiata in bicicletta oggi, e via. Anch'io stamattina, cazzo, ti devo fare la grande la buccia, ti devo fare l'altro. Aspetta, ti dico che però mi fanno male le chiappe, è troppo duro questo dire, ragazzi. Annoiata, allora l'ho presa, mi sono fatto un bel giretto e una mezz'oretta buona la faccio sempre camminando, una base all'altra qua e dietro nel circuito, insomma ho fatto una mezz'oretta e però mi facevano male le chiappe, è strano che è già in molle il sedile di quelli morbidi, eppure boh, forse devo fare il callo, ma mi domani scendi con Tore in campagna e ti fai una passeggiata. No, domani sabato, domani devo uscire a fare la, dobbiamo uscire a fare la spesa. Beh, accendiamo una di questi queste mattina, dai. Questo dipende da tutto da Tore, perché se Tore è libero, che viene, magari mi dice io sono pronto, capito? Domani no, domani mattina no, perché devo uscire, però già ci accendiamo dai col Tore in un altro momento. E per cui almeno ci facciamo una passeggiata e comincio a prendere un po' di pratica anche per la bici andando fuori, capito? Perché se no lo fido pratica sbanda ancora un pochettino, capito? Mi sto abituando piano piano, cazzo, non mi ricordo quanti anni sono che io non prendevo una bicicletta, immaginare, e a prendere adesso sembra così, non so che ha 81 anni, ma chi? Ma piano piano, camminava sola, se non pedali non cammina però, è così. Bisogna pedalare, ma chi è chiaro che in discesa, vabbè, non c'è bisogno, ma è in rettilineo, in salitina, devi pedalare per poter camminare, se non lo camminano. Cazzo, ho fatto la sudata, non ti dico niente, il caldo che stavo facendo stamattina. Ma se pedali non cammina? No, la cammina normalmente, però pesa di più quando è così, capito? Però come tu devi pedalare, non si chiede a pedalarti assistita, per cui è più leggera, ma cammina, il rettilineo cammina bene, e la striscia cammina quasi 40 gradi, no, 35 km all'ora fa. Anche lui, i piallini, come c'è, tipo le sue, no, cazzo. Bisogna abituarsi a questa qua, c'è una batteria molto grande dietro e pesa pure la batteria. Oh, c'ha tutto, c'ha anche le frecce, c'ha anche le frecce, c'ha anche lo stoppo, c'ha anche i clacson, le luci avanti e dietro, c'ha tutto, completa, è completa. Come è presa? In internet. E la batteria di quella smanzi, se ci rovina, prima piatta. La batteria dura un becchio, sono a piombo, capito? E per cui la batteria sarà come le macchine, e più penso io, perché sono lunghe, un bel lunghe sono le batterie, non sono di quelle piatte piccole che mettono dietro, e proprio rimane sotto il sedile, lunga fino a dove arriva il pedale, capito? Mi adesso l'ho messa a caricare, dopo scendo la distacco. Per cui c'ha 45 km di con la batteria carica, capito? A meno che non siano litio. No, questa a piombo, questa qua è ma. Eia. No, perché sai, vedendola di forma allungata potevo pensare anche al litio. No, a me no, ci vuole lo scooter per forza, se no io anche a pedalare è poco. Comunque aiuta molto la bici elettrica. Ho visto gente filare, caspita, beati loro. Cammina, dico che cammina, cazzo, lascia andare, cammina. In retteria tu fai la pedalata normale, e lei più pedale più cammina, cazzo, è un gioiello, Ah, sai che stavo pensando, che c'è anche lo scooter. C'è uno scooter elettrico, bella, ce n'è una che c'ha anche il pedale e una senza pedale, e fa tutto dalla, quell'altra fa tutto dalla manopola, la partenza dalla manopola, ma bella, e non costa molto, mi sembra così, sulle 1120, però è bellino, uno scooter, c'è anche i parabrezzi, li puoi immaginare. Che fanno anche 80 km con la batteria carica, ragazzi, da 40, da 50 secondi la batteria che li metti, capito? Ci sono le macchine in satellite elettrico, non so se l'hai visto, i furgoni di lavoro, ragazzi, girano in satellite elettrico, capito? Ti puoi immaginare, vanno bene. Non so la velocità che abbiano però, gli scooter elettrici. Ho il pedone che non sente niente, attraversa davanti. Lo collega al tizio, tutte le cose sono pericolose, cosa? Tutte le moto, vedete? Beh, vediamo un po', Bacchi! Tu dove ce l'hai? Nel bagaglino di dietro ce l'hai la batteria? Nel portafoglio dietro c'è la batteria. Io dietro c'ho anche il bauletto, davanti c'ho il cestello, la mia è tutta completa, però l'ho presa da donna, perché l'altra era troppo alta e non ci arrivava, io sono basso e avevo registrato la bicicletta più bassa, e quella da donna l'ho presa, e per cui mi sta bene, dai, va benissimo. E la batteria rimane sotto il sedile lunga. Non ha, la luce davanti dietro, il campanello, con il papà di questa. togliere una bici elettrica col freno a disco perché comincia a pigliare velocità ed deve avere buoni freni. Come che frena bene questa qua? Frena benissimo, cazzo. E c'hai i freni proprio come le ciocche, proprio precisi, è un bambosso. Certo, magari i frenatici c'è tutto altro, un'altra questione, però certo costava troppo quelli lì, e per cui certo. Cioè mi sembra costa 1000 rotti, 1120 mi sembra che costi quella lì. Ascolta, ve ne dico una. Ma lo sapete mamma cosa le sarebbe piaciuta a mamma? E quelle specie di così a quattro ruote che usano i vecchi medio un po' invalidi, che li vedi su marciapiedi piano piano, ma vai che te lo rubano subito oppure ti investono in strada. Ah, e anche quelli ci sono, 2005, 3000, 2005, ce ne sono tanti tipi, ce ne sono, sono belli, ne ho visto una, c'è il cassonetto dietro, bella, quella senza cabina, bella è, c'è il cassonetto dietro, a tre ruote, e una a quattro ce n'è, a quattro ruote, c'ha il manubrio però, non lo sterzo. Sì, sì, ne ho vista una anche in vendita, ruote grandi, quattro ruote grandi, solo che vanno troppo lente. Poi ho detto, ma ti fermi lì a comprare una cosa, te lo rubano, lascia perdere, e poi roba che costa. E questo poi è proprio roba per anziani un po' che hanno invalidità. Vabbè, anche mamma con questa artrosi dell'anca bilaterale sta camminando sempre peggio. È praticamente come se fosse invalida. Vabbè, ma ce ne sono che ce l'hanno quella a quattro ruote, quelle ruote anche un po' grandi, sì, sono belle. Vabbè, se piace uno se la prende, se certo è pericoloso, pericoloso, tutti sono pericolosi, anche in bicicletta, tu cammini in bicicletta è pericoloso, se in moto la stessa cosa, certo, è un attimo, però se pensiamo a quello si prende più niente, ma... Beh, quello è vero. Gianni, hai ricevuto la foto? Si è allontanato. Ringraziamoci ancora. Grazie, l'ha chiuso. Ah, non l'avevo sentito che aveva chiuso, no? Mi ero allontanato, dai. No, Gianni mi ha mandato una foto di quei piombini nuovi che hanno fatto con la punta in acciaio. Sono belli quelli, se li fanno pagare, caspita, 16 euro una scatolina da 200 piombini. Vabbè, ma chi c'ha la passione a quella roba? A me non mi sono mai piaciuto. Vai. Per cui chi è appassionato a quelle cose può essere graziato, graziato appassionato, per cui lui ci tiene, e a voi. Bacchigio, anche Bacchigio mi sembra che ce l'abbia, vero Bacchigio? E anche io ce l'ho, non è chiaro, ce l'ho anche io. E poi se manca, sto dicendo, se piombini, se no. Io sono piombini, sono fatti in acciaio, sono in acciaio per plastica. La plastica per prendere velocità sulla stampa, e l'acciaio è per volare. Quello lì c'è il senso manco. No, allora questi sono della HNN, non so che marca sia mai conosciuta, e ha proprio il corpo di piombo normale, e poi la punta è proprio credo in acciaio, in ottone, non so, è color ottone, può essere anche che sia ottone, ma è proprio molto a punta la punta. Di solito quando becca un bersaglio morbido il piombo si appiattisce, però la punta prosegue la corsa perforando, capito? Poi ho visto, ce n'è un sacco di tutti i tipi, tutti i modelli, li ho visti quelli in col corpicino in plastica e poi hanno una emisfera di metallo, ma non mi piacciono in plastica, perché poi magari sporcano la canna in plastica, non lo so, preferisco che sia piombo comunque, dai. No, io l'ho visto da cosa, da Pasquale, sicuramente, perché mi ha portato la carabina a cambiarmi la molla, si è aspettata la molla, e io mi si fa che mi avevano consigliato quel diritto di plastica, non lo potevo lasciare, però mai mi sono stressato, per sparare una cornata, sparare così, sono stressato e mi costano. Sì, infatti. normali, vanno bene quelli a testa piatta, cioè non deve penetrare molto. Però questi caspita nuovi con la punta d'acciaio sono molto molto belli, sai, per perforare piccole lamiere di ferro, così, oggetti vari, vecchi, mi voglio prendere. Addirittura nel negozio dove li voglio pigliare io costano 19 euro, una scatoletta tonda 19 euro, ce ne sono 200 solo, e costano bene, se li fanno pagare, perché quelli normali costano molto ma molto meno, poi costano 4-5 euro a scatoletta. A mio nome 100 euro, che sono 500, e poi sono 500, poi sono 500. La prima volta l'avevo trovata con la punta che io ho visto che è proprio conica, è proprio piatta. Ah, ho notato una cosa comunque, quelli della Gamo a punta, no? Che hanno la punta un po' conica, la punta dentro li ho sezionati ed è vuota, invece avevo della Norica, questi pallini che avevano la punta sempre a cono, no? Un po', ma la punta era piena e quindi penetrava meglio. No. Anche i pallini, le palline da 4 e mezzo, proprio da 0. Già sono qua signor Macchio, buonasera, già sono qua. E si è affacciato poco fa e poi si è chiuso la porta. No, è entrato Marco, poi sono stato rimasto all'ascolto. Ah, sì. Ah, le orecchie di porco, ah! Chi è Gio Marino? Ah, signor Toro, l'ho chiamato due volte, non mi ha risposto. Evidentemente si è chiuso le orecchie, farò sentire. Oh, è entrato Marco e sono rimasto in ascolto. Dai, non vi preoccupate, mamma. Perché stavo parlando di cose, capito? E allora anche quello un discorso, bisogna anche ascoltarli e vedere un po'. Chi è appassionato, è chiaro che sia così, dai. Noi non siamo appassionati a quel genere, solo ai baracchini, e boh, Marco. Meglio avere anche varie passioni, dai. E poi questa carabina non la sto usando da parecchi anni, era ferma. Adesso vediamo se funziona. Aspetta, un bel botto ha fatto. Il filo del discorso, cosa ti volevo dire? Mannaggia la miseria, non me lo ricordo, già mi verrà in mente. A chi? No, sto dicendo, ho visto la Gamo nuova, quella che si sta un mezzetto fa. Il discorso Pasquale della garantita 50 metri, però con il corso non sanno chiave. 50 metri per stadio sicuro. Eia. Ma liberalizzata o con porto d'armi quelle forti? Liberalizzata, sicuramente, la porta per 190 euro. E, caspita, 2,90, io l'ho pagata 180, 190, però sono passati 10 anni, dai. E quindi adesso costeranno un po' di più, poi dipende dal modello, il mio era un modello abbastanza base. Vabbè. Già ti diverti, ah, ecco cosa mi sono ricordato, volevo dire, la prima volta che l'ho portata in campagna, che c'era anche mio zio, no? La campagna è di mia zia, quando ha visto che dovevamo provare la carabina, era spaventata, attenzione dove sparate, e ci sono i gatti, e lei credeva che fosse quasi un fucile vero, e ci abbiamo messo un pezzo di legno, no? Questo, il buchetto fa, tutto lì, e lì era quasi tutta spaventata che dovevamo sparare con questa carabina. Ho detto, mica è un mezzo giocattolo mio, non è un fucile vero. Mamma mia, mia zia c'ha un po' paura di tutto mio. sistema è tutto quando usi questa roba, e non solo. Non sei uscito, Mirri? A Carludo? È importante. Hai capito? Tutta paurita. Mica ci sono i gatti. Ma guarda che... Mamma mia. E lì è contraria a tutto. Poi lo sai che mia zia non può vedere i baracchini. Diceva che tempo perso. Ogni volta stava a criticare. Sei sempre con questo baracchino. E io una volta ho alzato le voci, perché era in casa mia. Ho detto, ma guarda che non sto al baracchino tutti i giorni, tutto il giorno, mi lo uso ogni tanto, capito? Non lo può vedere, non lo può vedere, per lei siamo tutti perdi tempo. Ma uno può fare quello che vuole, cazzo. Cazzo, io per esempio in giro non ci vado, raramente se in giro, da un bel anni è mollato tutti, anche loro sono rimasti un po' meravigliati. Non mi va più di uscire, per cui guarda, sono a casa, non faccio altro. Accendo il baracchino, anche se non c'è nessuno, è sempre acceso quel baracchino, sempre, tutto il giorno, se sono a casa è sempre acceso. Per cui mi piace averlo, anche se non ci parlo, e che se ne frega. Accolto, stato da parte all'altra, se c'è gente magari ci chiacchiera, se io ascolto e basta, boh. Ma mia zia è nevrotica, capito? Ti critica tutto quello che fai tu, tutte le tue passioni, te le critica, la carabina te la critica, il baracchino te lo critica, la roba del mare, per andare al mare, sub, te la critica, solo quello che fa lì è tutto giusto, capito? È nevrotica, ecco. Vabbè, va, io ne approfitto, chiudo, per cui... Grazie della chiacchierazzina che abbiamo fatto. Ciao Marco, saluto la Liu. Ciao Bacchi, stai bene, buon primetto, sono di casa. Insieme a Tore. Avanti Tore, riprendi tu e io chiudo, vi ascolto per il finale e chiudo. Ciao a tutti. Sì, ok Gianmari, ci sentiamo alle Prusse domani magari. Ok. Si prende Bacchi. Ok, ci sentiamo Bacchi, alle prossime. Si prende Marco. Eia, ciao Gio Maria, buona cena, buon tutto, ciao Bacchisio. Caspita, le 8 sono, da. Forse sia anche mi guardi un pezzo di telegiornale, basta che non sia politica, che non ne voglio proprio sentire. Vediamo se c'è all'ascolto Natalino, che non l'ho più sentito. Natalino, ci sei, batte un colpo. Ma vale di mame. Luca, tu sei? Luca, bello. Ma che, Gianni? Sembra la voce di Luca del Monte. È la voce di tua sorella, Sto rincoglionendo, scusate il termine, ma Natalino, batte un colpo. Non parla nemmeno. Forse, vabbè, da. Ha detto che ascoltava comunque finché per un po'. Gianni ci sei? Quando si calmano le acque. Ciao Claudio, invitato per cucù. Ehi, buonasera a tutti, ciao anche a Gianmaria Bacchisio. Intanto vi ascolto. Ha detto ma fame non avete. Tore, ma non sei irritato tu? Io? Ehi, alle sei pallotto, magna. Vabbè, un minuto in più cosa fate? Dai, cacca. Mi mecciamente Rugani, burro mecciamente. Vabbè, dai, vi saluto, anch'io vi saluto. Ah, che se no gli siete da baggiarmi. Ma non mi è buona a mangiare. Ah, vabbè, dai, ci sentiamo alle prossime, ok. Ciao Claudio, ciao a che date il nome, ciao Marco. Il doppio russo, ci sentiamo. Ok, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao Tore, ciao. Buona, buon tutto, dai. E beh, Gianni, li ha visti quei piombini? Che ma sono per i russi, tira nei cattolici per fuori. E basta sparare a bersagli inanimati, certo. Oggetti, che ne so, che vuoi provare a bucare, un'anguria, un melone, poi magari te li mangi una volta che sono inquinati di piombo. Quando è dolce dolce può l'anguria. No, qua invece prendiamo più melone che anguria, ma l'anguria la voglio quest'estate. E io già, facciamo una prova con questa carabina, andiamo a sparare alle antenne di Claudio. Ah, ecco, la tua sorella spara. No, infatti non ci arriverebbe lì. Ma poi credo che le abbia anche mezze smontate, no? O no, per portarle dall'altra QTH, no? No, te l'ho detto Marco, lascio qua. Non piatto niente là, manco un baracchino, niente, non mi interessa. Te lascio qua, lascio tutto qua. Capito? Perché l'appartamento rimane, non è più in vendita, quindi lascio tutto qua. Radio, diciamo che gran parte le ho smontate e portate via, non si sa mai che però c'è l'allarme a casa, quindi no, piano basso, fosse stato piano alto ma era più pericoloso, ma piano basso, quindi c'è l'allarme, la porta di sicurezza. Kappa, cosa smonti? Non fa cosa, Marco, per piantare cosa? Per ripiantare tutto di nuovo, un altro sacrificio, a parte che questo sistema che ha fatto Fabrizio là non va bene, perché qualche apparecchio là ci vuole il traliccio, altri soldi, qui, là, lascia perdere. Ah, beh, sarebbe un lavoro troppo... mamma mia, vabbè. Ma tanto se non la vendi i moduli da lì, cosa mi hai portato tu? Ma aspetta che mamma mi ha portato una salsiccia fresca da mangiare, aspetta, come mai? Per merenda me l'ha portata. Perché ho già pranzato qui. E noi ceniamo qua stasera. C'è mia figlia a Sassari, e quindi siamo qua. E beh, doppio rum, come va? Tutto a posto? Solo di sera, qua c'è il ferie. Dalle 2 alle 9. Ma sì, domenica orario, Sant'Antonio mio, per carità, dalle 2 alle 9. Tutti i santi giorni, non c'è possibilità che torni a lavorare di mattina. Condominiale, mi ha messo in mezzo l'amministratore, sono incasinato un pezzo. Mi ha terminato l'altro giorno un lavoro qua nel condomino, ho fatto tutto l'ingresso nostro, adesso c'è il cancelletto piccolo già fatto, devo fare quello grande, e poi un po' di manutenzione a alcuni appartamenti di persone anziane, diciamolo. E poi ne ho un altro in via degli astronauti, uno in via per Antonio Sacca. Tutto tuo, se ti ha preso qualche impresa, qualche cosa? Una cosa a condizione familiare, diciamo, avete tenuto la conto. Attenzione, stanno pagando. Bene, non c'è problema, anche se butti nel dolore altri mesi, perché il 3 mi pare, o il 4, io sempre invece, il primo di novici, no, non mi interessa. No, ma non è questione di, è per ammazzare un po' il tempo, già capito, è per ammazzare un po' il tempo, tutto qua, solo per quello, perché mi stavo un po' rincoglionendo, non è si può stare sempre in campagna, in campagna, in campagna, bisogna anche di fare altre cose, capito, e quindi niente. E poi ho altri progetti con mia figlia, però ancora dobbiamo aspettare almeno a luglio o settembre, diciamo, capito? Sempre per fare qualcosa in più. E per il resto si campa alla grande, tranquillità, serenità, tutto a posto. Come anche una rottura di balle. Impegno grande, ma l'ho preso con la mia scala, capito? fatto tutto l'androne nuovo, tutto, la Z in due, ho fatto tutto l'androne nuovo, tutto buttato giù il muro, l'intonacciato, verniciato, ho fatto tutto un coso di fioriere, non sta molto bello, e poi il cancelletto piccolo ho fatto. Adesso devo raschiare tutto quello grande, quello elettrico grande del passo carraio e verniciare anche quello. Capito? Capita, c'è a cambiare scala bagni, c'è niente così. Volevo dare anche il giardinaggio, ho detto no. Assolutamente non ne voglio manco, infatti c'è un'impresa che fa giardinaggio. Io solo con attenzione così. Il giardinaggio ti impegna troppo già. Minchia, poi in questo periodo. Una pagliata due settimane fa già alta di nuovo l'erba qua. Ma non ti danno, è un lungaggio, mi è buono a tagliare l'erba. Tu lui mi dà un tanto al mese. Io le faccio ritenuta d'acconto. Capito? Sì, butto in mezzo, se non gli si guarda dentro io, cioè, non faccio interventi, perché se chiama uno a fare interventi le costa molto di più, io invece così a chiamata, capito? Ho un mese, 3, 4, anche 500, non c'è problema, giusto così a mettere in mezzo. Più ce n'è meglio è già, il tubolino bisogna fare così, se no tanto servono sempre. Ascolta, e come con la macchina come ti stai trovando? È veramente una bella macchina, leggera nella guida, scattante, è una bella macchina. Sì, ce l'ha il cognato di mio fratello, te l'ho detto, uguale alla tua, però ti che essere station c'è la berlina. Stesso modello, gas, benzina, gas, così, stessa cilindrata, tutta bella. Come il colore anche sul grigio fumo di Londra. Molto bella, ce l'ho anche provata, una bella macchina. Bella macchina, la Fiat sta continuando a rispondere come gli anni passati. Ha rifatto delle macchine. Sì. No, io quest'anno ancora, perché guarda, dopo che mi ho fatto tutti i lavori da Ruzzetto, gli ho preso una vacca di nana 147, ma cose normali, ci distribuzione, messo a punto, messo le gomme nuove, insomma, troppo lungo per cambiare. Il motore va ancora bene, però mia figlia ha deciso a fine anno di cambiarla, e si cambierà anche quella. Io ho la mia motocrappa, la mia 600, ma io non treno già in città. I miei spostamenti a sera, giù caricata di roba, tutto, vai, abbassate i sedili, io, truba che taglio. sapevo. C'è Mario, c'è tutti i pezzi dell'Alfa, non c'era più l'Alfa, c'è la BMW. In garage c'è tutti i pezzi, non li ha dati perché io c'ho l'Alfa, c'ha il rottino nuovo, proprio un attacco Fiat, sono uguali, però c'è la predata, non sapevo niente. Ma se c'hai la berlina è precisa, identica a quella del cognato di mio fratello. Cambierà il colore, uguale, cerchia 17, tutta super accessoriata, tutta la zecca, le manca la barava, che c'è una macchina bellissima, mi piace molto, anche gli interni sono molto belli, molto molto belli. Ho provata di notte, ma c'ha un raggio di luce allucinante, bella come guida, bella veramente. Allora sono uguali, lui ha fatto la stessa cosa, uguale, siccome lui ha Porto Torres, però riconosce un sacco di gommisti, mi pare sia andato alla BPA e se l'ha fatta dare, e c'è anche lui il rottino, perché voleva lui, siccome è molto pignolo, meglio di dire, voleva il cerchio da 17 con la gomma, e lo metti, non ce n'è posto per mettere la ruota così, l'unico posto che c'è puoi mettere il rottino, eppure lui ha disappigliato il rottino, clicco tutto. Ma è un rottino che non è di rottino, capito, come c'è il rottino, è bello grosso, capito? Io l'ho messo in filato e mi blocca anche la gabbia del cane, tra la gabbia e la parte laterale della macchina, mi va incastrato, non si muove, non può dubitare. Lui su quel lato, siccome non c'ha l'affare del cane, ha fatto una cinghia e ce l'ha legata sul lato così, lo stesso, al contrario del lato salvatoio, là, lì che c'è quello spazietto. No, già lo so, ce l'ho io rottino da 147, non è fine, è una bella larga, è un bel rottino, io ce l'ho nuovo, mai usato, tu figurati, capito? Va bene, hai fatto bene già, perché siccome tu viaggi, può capitare che praticamente è un problema la gomma, non te la ripara. Se si spacca, se metti che prenda un porto, una cosa, si scoppia la gomma, si crepa, come fai? Magari c'è pure di accadere, c'è da capire più parte. Come fai qui a riparare la macchina? Se portati che la macchina se non c'è ruota, almeno così c'è un dubbio, capito? Userò sempre la gomma a discosta con il mio cuore. Loro non l'hanno messa perché a posto della ruota discosta hanno messo un pompolone del gas, capito? Quindi mettono il business e poi tra l'altro tante vite lo stanno usando per tutti, anche se c'è un pompolone. Invece che la ruota ti lasciano cose, il vano per la ruota, però non la mettono, capito? Sì, conosco perfettamente, con la ciambella, sì, ho capito. No, ma va bene, ottimo, perché guarda, io i primi fiorino che ci avevano dato, quelli rossi, mi era conosciuto anche, aveva il kit per la gomma, capito? C'era questo compressorino, c'era questa cosa per riparare la gomma, questa, per carità, si inceppava, va via. Quando ci hanno sostituito le macchine c'erano altre bianche, tutte con la gomma di scorta, sotto, non sotto il cassolo, dietro. La gomma di scorta ci vuole, già. Ci vuole. Io quando viaggiavo con la 147, addirittura ne avevo due di gomma di scorta, due. Una nel cofano e una nel sotto, il rottino, due rottini c'avevo, due rottini, proprio me l'aveva dato male, poi gliel'ho ritornato perché ho tolto a metterlo in garage che non mi serve tanto, devo viaggiare più io. Però anche nella 600 lo stesso, nella 600 c'è il rottino lo stesso, sono tutti un po' di rottini, boh. Vabbè, vediamo se è rientrato Marco e si è mangiato la salsiccia. Mancavati troppo, era tornato. Praticamente guarda, quello che ho dato a me ci ha preso a me per fare il plastica che si mette all'interno della gomma, c'ha il click, c'ha la chiave, che vabbè pure c'ho quella croce che non la uso mai più, però così c'è il cacciavite, tutto quanto è incastrato nei vari per mettere gli attrezzi, no? E poi si gira nel retro della gomma e sta dentro. avevo già dall'altra macchina, che ho fatto il punto sulla scorta, già avevo la gomma di scorta, ti ricordi, e mi avevamo dato il copriruota. Quello di copriruota non glielo dato quando ho visto la macchina, l'ho preso. Esatto, beh, no, lui gli ha dato solo la gomma di scorta, non la nuova. Poi è andata la Upas e si è comprato tutto nuovo Fiat, l'ha fatto arrivare originale Fiat, tutto il kit, come detto, quello proprio che c'è il sacchetto, che c'è dentro tutto il cacciavite, chiave, cricco, tutto. Ho sentito sotto qualcuno, chi è che vuole entrare? Ciao Valè, buonasera. E come si va? Già va bene, va bene. Sono 23 e c'era così, sono entrato a salutare e ci sono già un bel po', anzi adesso chiudo perché è pronta la cena e poi dobbiamo uscire. Dai, già ti saluto, grazie delle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono ascolto. Ciao Valè, devo chiudere che siamo qua a cena e è un casino, c'è anche gente. Dai, ti ripasso il cambio, c'è Gianni. E vi lascio a tutti e due, saluto a tutti, ci sentiamo alle prossime già. Vai Valè. Allora, ciao Valerio, ciao anche a Claudio, buona carica, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao, ciao a tutti e due, buon fine serata, ciao, ciao, ciao. Non c'è più nessuno?